Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Sì, proprio così, ricominciamo, let's start a fare quello che siamo venuti a fare nella stanza, un'altra volta ce lo dice la voce di Felacuti, questo cosa vuol dire, Coli? Vuol dire che siamo tornati dopo il grande successo della prima stagione, sì. A grande richiesta. Esatto, soprattutto non interessava a nessuno, ma noi siamo tornati, sta iniziando la seconda stagione Dibattito Madre, perché noi siamo appunto Piero e Coli, siamo in diretta da Exalge in Milano, su Radio Exalge, su astralbene.com, e questo di nuovo è la seconda stagione di Dibattito Madre. Bello, ciao Coli, ben ritrovato. Ciao Piero, bentornato, ben ritrovato, noi ci vediamo tutti i giorni, ma... esatto, ben ritrovato in diretta, perché poi è bello perché ci vediamo spesso. Esatto, qui abbiamo modo di poter dare sfogo alle nostre piccole ricerche, chiamiamole così. Sì, sì, è la nostra curiosità, no? Che è una parola che abbiamo usato molto nella scorsa stagione, però abbiamo anche detto che quest'anno vogliamo essere più frizzanti, vero? Per cui cerchiamo di dare il bando alle ciance. Abbiamo appena detto che sta iniziando la seconda stagione, però questa è una puntata pilota, cioè in qualche senso la scorsa stagione è stata una stagione pilota, questa è la puntata pilota della seconda. Ma perché abbiamo pensato che ci possa servire un altro episodio pilota? Perché l'anno scorso abbiamo fatto un certo tipo di percorso. Ciao ragazzi, intanto sono arrivati gli amici che tra un po' ci raggiungeranno in diretta e poi spinneranno, gireranno due dischi per il piacere, più di due dischi in realtà, per il piacere delle nostre orecchie. Ma stavo dicendo, l'anno scorso abbiamo fatto questo bel percorso, no? Delle evoluzioni, certe evoluzioni della black music. E però cos'è successo? Che in realtà molto presto durante la stagione ci siamo resi conto, soprattutto pensando, guardando i documentari, leggendo e pensando ad Alan Lomax, che è stato abbastanza una guida, forse un po' implicita, ma è stato abbastanza una nostra guida l'anno scorso. Vero. Ci siamo resi conto che dire black music non era esattamente corretto, che il nostro focus, il nostro obiettivo non era esattamente quello, o meglio, non solo quello. Giusto, perché volevamo ripercorrere anche un po' quelle che erano le vere origini della musica che ascoltiamo oggi, e ci sembrava comunque di aver tralasciato una bella fetta di quello che oggi viene identificato come musica pop, no? Giusto? Perfetto, perché poi appunto di fatto ci interessava l'aspetto folk tradizionale, l'aspetto popolare della black music. Cioè abbiamo parlato di black music, tra tutte diciamo forse il blues, perché secondo me è quello in cui questo esempio è più evidente, ma probabilmente ne parleremo dopo. L'abbiamo trattato esattamente come una musica di folklore, una musica tradizionale, una musica popolare che viene dal basso. Detto questo, io credo che questa introduzione può anche soddisfarci, nel senso che mi sembra che abbiamo detto tutto e anche in modo molto chiaro. Drago, draga, se sei su astralbene.com, se sei su Radio Exalge, noi te lo ripetiamo, se sei appena sintonizzato, sintonizzata, questo è l'episodio pilota della stagione 2 del programma radiofonico che noi chiamiamo Battito Madre. Dunque, tante novità quest'anno, intanto anche la nostra pagina Instagram che abbiamo, certo, aperto. Lo vedi come mi riporti sempre sul punto, quello giusto, è vero. Se non l'avete ancora fatto, seguiteci su Instagram, che è una cosa un po' così, però si chiama Call for Action, quelli importanti la chiamano Call for Action. Esatto. E ci siamo messi anche lì, abbiamo una piccola identità, abbiamo un logo, grazie Giacomo tra l'altro. Grazie Giacomo, sì, perché tra l'altro ci piace molto questo nuovo logo, ci piaceva anche quello dell'anno scorso, questo sentiamo che ci dà un'identità più precisa, più nostra. Detto questo, a noi piaceva anche comunque ricominciare questa stagione un po' riavvolgendo il disco, è vero? Giusto. Perché abbiamo sentito questa voce nella sigla, l'anno scorso la puntata pilota è iniziata direttamente con lui, cioè Felacuti, che diceva esattamente questo e anzi lo cantava. A noi piaceva ricominciare esattamente da lì, per cui ce ne andiamo a sentire un'altra volta. Let's start what you have come into the room to do. Riniziamo quello che siamo venuti a fare nella stanza. Felacuti, The Black President, questo è Battito Madre, live and direct. We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Sì, Fela Kuti, Let's Start, l'abbiamo sentito un'altra volta, credo esattamente tra l'altro un anno dopo, perché adesso dovrei andare a ritrovare le, insomma, le date precise, però ho come l'impressione che anche l'anno scorso la pilota sia andata in onda il 30 novembre, perché tra l'altro era mercoledì, è vero, e non giovedì, per cui secondo me esattamente un anno dopo riascoltiamo Let's Start di Fela Kuti, perché noi, ripeto, abbiamo iniziato quello che siamo venuti a fare, che si chiama Battito Madre, quest'anno Folk and Popular Music. Allora, abbiamo già nominato Alan Lomax, che insomma forse è bene spendere altre due parole su questo, che è stato un grandissimo personaggio che agli inizi, nella prima metà del Novecento, ha fatto tantissimi giri appunto per tutto il mondo con questo suo registratore definitivo, cioè molto grosso, ingombrante, pesante, ed è andato proprio a registrare quello che erano le espressioni musicali, folcloristiche, tradizionali e popolari di quel tempo, che lui già appunto si rendeva conto. E forse l'anno scorso abbiamo fatto un po' nostra questa convinzione di Lomax, è vero Coni? È vero, in quanto effettivamente lui da sociologo e musicologo si è reso conto che l'eredità di una, del sociale, della, delle popolazioni eccetera, viene spesso tradotto anche poi nella musica che, queste, che questi popoli fruivano, producono. E soprattutto si era reso conto che era una cosa che era incredibilmente a rischio, perché la globalizzazione, che molto spesso è sinonimo di omologazione, chiaramente ha messo in rischio, a pericolo di estinzione, tutte queste espressioni popolari, spontanee e tradizionali. E quindi lui ha sentito proprio sua la missione di non far sì che cadessero, che venissero perse, ma di conservarle. Ed è grazie a lui e a questo suo lavoro, che, di cui in realtà una certa aveva anche il mandato della biblioteca del congresso, perché è una roba molto istituzionale, una roba importante, che noi adesso possiamo conoscere, sentire, ascoltare le musiche, che, i canti che venivano fatti, sì, e vengono ancora in certe piccole sacche in tutto il mondo. Esatto, e per informazione agli ascoltatori dico anche che tante, ma forse tantissime se non tutte, queste registrazioni sono state raccolte in un sito che si chiama The Global Jukebox. È molto intuitivo, è interessante perché appunto è una mappa del globo, tipo un Google Earth, in cui vengono, ci sono dei pin dove appunto corrispondono le registrazioni che sentirete cliccando quel pin. E è bello, e posso dire già che grazie a questo, adesso volevamo farvi sentire un po' di quella che è questa, quella che è la popular music, ovvero musica popolare dei popoli. E per farlo io, diciamo che ho preso 5 di queste, di questo archivio, 5 canzoni di questo archivio messe insieme, creato una piccola composizione. Documenti, è bello chiamarli documenti, perché alla fine, cioè, effettivamente forse è roba più da museo che da consumo vero. È molto interessante ascoltarle. Stop, sentiamole intanto. Ai, aiola opele Hawaii ea, pa. Aiola opele Hawaii ea, eha a maila i mau ke lea. Aia. Aiola opele Hawaii ea, eha a maila i mau ke lea. Uhi. Ha uhi. Maila ea, ke no mea ela ia pina ea. Kalvaare nura purke loha, aur ke kare mada vali re maya, jo aalagare rat. Har ek nahi kangare maya me ke narani bhagi rathi jai nili. Haulira. Oh, Ok, rientriamo, torniamo in diretta. Abbiamo appena sentito questo bellissimo mix di 3 minuti abbondanti che ha fatto Coni di, quanti sono? 5 registrazioni, di cui la maggior parte sono del repertorio dell'archivio di Lomax, che provengono in realtà da 5 angoli diversi del mondo, più esatto. o meno. Da dove vengono? Esatto. Allora, la prima era hawaiana, poi abbiamo una composizione un po' più orchestrale della Repubblica Dominicana con elementi un po' più percussivi, per poi andare in India con questi canti lamentosi che ritroveremo poi, cioè anche in altri posti, tra cui anche quello che arriva subito dopo, che è la Sicilia. Ed è particolare vedere che ci sono proprio delle similitudini in questi pezzi. Ovviamente poi anche la rudimentalità degli strumenti e dei pochi strumenti a disposizione, però si possono già trovare delle cose in comune, no? Credo. Cosa ne dici? Credo anche io, tra l'altro, appunto, quando hai detto canti lamentosi, effettivamente uno si poteva chiedere ma di cosa sta parlando, perché effettivamente poi forse sono stati evidenti più nella parte siciliana, che è stata, se non sbaglio, la quarta, ma in effetti ci sono cose simili in quella successiva, che è messicana, in quella precedente, che è indiana, insomma, ci sono senza dubbio. Esatto, ci riporta anche un po' al discorso dell'anno scorso del fare musica per trasmettere emozioni, no? E quindi quelli che erano i canti dei contadini, erano i canti di abbandono, di lavoro, di terra, eccetera, possono essere tranquillamente poi riportati in ogni angolo del mondo, perché quelle erano le cose che il popolo faceva. Assolutamente. Allora, abbiamo già usato dei termini diversi tra loro, perché prima abbiamo detto, appunto, noi abbiamo detto di aver ascoltato delle canzoni popolari, musica tradizionale e di folklore, e le abbiamo usate più o meno con lo stesso significato, quando in realtà, se poi andiamo a parlare di musicologia, non hanno esattamente lo stesso significato, nel senso che, lasciando un attimo da parte con la popular music in inglese, cioè musica popolare, parliamo un attimo di quella tradizionale e folclorica, che è quella poi alla fine che vogliamo mischiare noi, no? Alla sì. musica popolare, o meglio, non è che noi vogliamo mischiare, vogliamo far vedere come siano sempre e da sempre mischiate. Perché musica tradizionale o di folklore si è sempre usata per distinguere questa usanza, tra virgolette, bassa, uso bassa in termini, tra virgolette, scientifico, ecco, e quella alta invece, che è la musica colta, che era la musica classica, è stata fino al... direi metà dell'Ottocento questa sì. divisione, e anche un po' probabilmente più avanti, insomma, con la tecnica, con la globalizzazione, la società di massa, allora entra anche questo terzo elemento, che è quello della popular music. Esatto, che era un dove effettivamente andavano a incontrarsi, come hai detto benissimo tu, queste due macro categorie, chiamiamole, che in verità poi, se non sbaglio, diventano tre, no? Perché esatto, va a formare questo triangolo assiomatico di questo musicologo del Novecento, di cui adesso andremo a recuperarci il nome, che è, insomma, appunto, musica popolare, folclorica tradizionale e musica colta, alta, classica. Di nuovo, popular music, allora, è un termine che ha senso, prende senso solo da 100 anni sostanzialmente, perché prima non c'era modo di distinguere musica tradizionale e musica popolare, perché parte fondamentale della definizione di popular music, di musica popolare, è quella di essere prodotta e distribuita con ottica commerciale e soprattutto su scala mondiale. Punto, finita qua. Benissimo, bravissimo. Per era cui... difficile già affrontare questo, cioè, secondo me è difficile far chiarezza su questo punto. Sì, io temevo di non farcela, invece forse ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, ma perché ci siamo preparati bene. E allora, lì, la questione è, secondo me, di nuovo un po' di coincidenza di diversi fattori, e vado a chiudere, anche perché poi ci sono eventi storici che sono stati concomitanti all'epoca in cui la tecnica e la globalizzazione hanno fatto quel salto lì incredibile, cioè sostanzialmente tra gli anni 40 e 50 le innovazioni tecniche, capito, è successo tutto più o meno allo stesso, in quel momento lì è successo qualcosa per cui non si, da lì in poi si è potuto parlare di popular music e prima non aveva senso farla. Quindi come ormai è palese, pop music non è altro che l'abbreviazione di popular music. Da credo 50 anni a questa parte, anzi ormai 60, non si può parlare di pop senza pensare immediatamente a una band che tra l'altro ci ha dato il là a inizio mese per poterci suonare una loro canzone senza dover fare i digger o i troppo nazional popolari, perché stiamo parlando dei Beatles, che il venerdì 3 novembre hanno buttato fuori un singolo che si chiama Now and Then ed è bellissimo. Potremmo fare due chiacchiere dopo riguardo questa cosa, vero? Sì, sì, sentiamolo. Allora sentiamolo, Now and Then, questa bellissima, nuova, l'ultima canzone dei Beatles. One, two. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we Bene, sì, il nuovo singolo dei Beatles che si intitola Now and Then, di cui adesso diamo solo due accenni, è stato prodotto grazie all'intelligenza artificiale, arrangiato da Ringo Starr e Paul McCartney ed è uscito venerdì 3 novembre 2023. Poi magari avremo modo di fare un paio di chiacchiere, capire che cosa ne pensiamo di questa cosa dell'intelligenza artificiale applicata alla musica, ma al momento ci serviva questo pezzo, ci serviva questa band proprio per parlare del grande fenomeno mondiale che sono stati e di come siano arrivati a rappresentare un po' in toto quello che è la musica popolare, la pop music. Primo grande fenomeno di massa, più che altro, cioè, con aiutato poi, come dicevamo prima, da dei grandi sviluppi tecnologici, ha aiutato a creare quello che è oggi il mito dei Beatles. Io si sono un po' allineati i pianeti probabilmente, ma insomma, dei Beatles è stato parlato, scritto da moltissimo tempo e da persone che ne sanno molto più di noi, per cui a noi non interessa qui fare né l'apologia né la critica dei Beatles, ci serviva appunto a fare quello che abbiamo appena detto, perché quello è stato un momento, quello appunto tra gli anni 40 e 50, in cui, lo ripetiamo, la globalizzazione ha cominciato a raggiungere il suo apice, o comunque si è sviluppata a ritmi molto più alti, molto più intensi rispetto a prima. E quindi questo è successo un po' in tutto il mondo, appunto, globalizzazione. La cosa che noi interessa è capire qual è il sostrato, qual è la materia su cui la globalizzazione è andata ad agire, perché poi, appunto, abbiamo detto prima, la popular music ha caratteristiche locali, nazionali, per cui un po' ovunque è, diciamo, diversa, alle sue caratteristiche, per cui è interessante andare un po' a scoprire, oggi faremo un po' un giretto dell'Europa, quali sono i luoghi e soprattutto quali sono le musiche tradizionali su cui questo processo di nuovo, probabilmente omologazione, ma diciamo di evoluzione e di contaminazione è andato ad agire. Certo, perché adesso, oggi, si pensa chiaramente che la musica popolare viene fruita anche individualmente, singolarmente, da, vabbè, radio, è normale, però piattaforme di streaming, eccetera. Eh sì, tra l'altro questo della musica come cosa individuale è una novità molto recente. Bravo, perché comunque all'inizio dall'albore dei tempi la musica era una cosa da vivere in condivisione all'interno di famiglie, gruppi sociali, gruppi di appartenenza, per poi arrivare finalmente nelle strutture che potevano ospitare la musica. E qui iniziamo a parlare un po' di dove alla fine del 1800, inizio 900, si è andata a creare quella che è la musica, veramente la musica popolare e folk, dove ha preso sostanza, ecco. Esatto, perché a noi interessa proprio questo che hai appena detto, la musica come il modo migliore per stare insieme e mettere in mezzo qualcosa che ci appartiene e darlo agli altri. Ora capiremo un po' cos'è questo qualcosa, ma direi di partire con il nostro piccolo viaggio sulle sponde alla fine del Mediterraneo, perché ad esempio abbiamo scoperto questa cosa interessante, che dalle parti di Barcellona la musica globalizzata e globalizzante è andata ad interagire con la cosa locale, andando a creare tra l'altro questo genere che si chiama rumba catalana, che appunto è nata tra le comunità gitane, cioè appunto nomadi dei quartieri di Gràcia, del Raval e di Hostafrancs a Barcellona, che sono quartieri che chi è stato in città, chi la conosce, sono molto popolari e soprattutto multiculturali. Vabbè, è molto percussivo, ci sono ovviamente la parte tradizionale è quella dei canti che sono rimandano un po' al flamenco, no? Perché sono gitani e vengono dal sud della Spagna, che è quello dell'Andalusia, però ci sono anche molte molte influenze, se vogliamo, atlantiche, cioè queste percussioni dai timbri alti, no? Il ghiro, le congas, i timbales soprattutto. Certo, perché poi come hai detto tu, Gitani, mi hai fatto venire in mente che queste influenze non arrivavano via aria, arrivavano tramite le persone, perché le persone in quegli anni si spostavano e si spostavano in grandi gruppi. Questo ha dato modo a che le proprietà ereditarie di certi gruppi di appartenenza si trovassero completamente distantissime dal loro luogo di nascita, e quindi erano solo cose bellissime, come ad esempio la rumba catalana, di cui adesso, ovviamente, perché è un po' questo il nostro stile, non è che facciamo sentire un altro documento, no, di prima che succedesse tutto questo, ma andiamo a sentire un pezzo che è del 78, che è tra l'altro di questo che si chiama Gato Perez, che è stato uno degli innovatori della rumba catalana degli anni 70, che era una cosa già ovviamente precedente. Tra l'altro, il Gato Perez, carino dirlo, è un artista nato a Buenos Aires e poi stabilitosi a Barcellona, e infatti canta questa rumba un po' in spagnolo con questo bellissimo accento argentino, un po' in catalano con questo ancora più bello accento argentino, e io direi senza troppo indugiare di andare a sentire questa rumba de Barcellona del 78 di un uomo che si chiamava il Gato Perez, argentino a Barcellona, suonava questa roba qua, senti. Thank you. Eh sì, proprio così, la rumba de Barcelona di questo artista argentino che si chiamava, che si chiama El Gato Perez, a me diverte molto, perché è bello qui sentire la pronuncia argentina e nel catalano e nello spagnolo, ma andando a, a sentire le cose precedenti del gato si sente che in realtà si sforzava di avere, di parlare, di cantare con l'accento più spagnolo di quel sud lì della Spagna. Negli anni evidentemente si è sentito un po' più libero di essere se stesso. Abbiamo sentito in questa canzone, sì, abbiamo detto prima, dei canti gitani andalusi, ma soprattutto la cosa che rimanda immediatamente all'Andalusia e al flamenco è, sono queste palmas, no? Il battito delle mani così veloce, che poi se vuoi ha molto a che fare anche con la tarantella nel sud Italia, insomma, abbiamo detto, l'hai detto tu prima, se alla fine le emozioni da esprimere sono quelle dell'umanità è molto facile che tutto nella grandissima varietà di questo universo che queste cose finiscano un po' per somigliarsi. Esatto, non abbiamo se non sbaglio affrontato questi luoghi, no? In cui, dove questi generi hanno veramente preso piede. In Andalusia, in Spagna, si parlava di Caffè Cantantes. Ah, certo. In Spagna avevano più o meno tutti lo stesso nome, Caffè Chantant in francese. In Francia, certo. E cos'erano? Erano luoghi in cui le persone si ritrovavano, bevevano, c'erano varietà, c'erano spettacoli. E anche spesso poco raccomandabili come, certo, come, esatto, erano, diciamo, ovviamente non c'era una stratificazione sociale come quella di oggi. C'erano le persone che uscivano e probabilmente c'era l'alta borghesia e basta. Vino, no? Soldi. E quindi era tutto lì e si ritrovavano persone effettivamente che prendevano parte alla criminalità e persone che invece uscivano solamente per andare a sentire della musica. E si mischiavano, esattamente. Sì, e questa appunto è una cosa che succede, io non voglio dire in tutta Europa, perché poi l'Europa è molto varia, ma direi abbastanza sicuramente in tutto il Mediterraneo. A proposito di Mediterraneo, passiamo adesso a una città che rispetto a Barcellona, anzi sono sulla stessa identica latitudine, in via aria, via mare, sono vicinissime, e cioè questa città è Napoli. Prima ad esempio ho detto che molto effetto, molto impatto ce l'hanno proprio degli eventi storici che succedono, punto. E questo è in questo caso la Seconda Guerra Mondiale, perché questo pezzo si chiama Tammurriata Nera. Noi andremo a sentire la versione della Nuova Compagnia di Canto Popolare, un gruppo che si è formato a fine anni 60, ma questa in realtà è una canzone proprio, è una canzone classica napoletana, è proprio la definizione, certo. Una canzone con... perché poi, ecco, questo volevo dire, e poi del pezzo magari parliamo dopo averlo sentito. La differenza dell'Italia probabilmente rispetto a tutti questi altri luoghi del Mediterraneo è che in Italia non si parlava solo di canto di musica, ma era varietà. Era varietà, sì. Il teatro di varietà è anche, esatto, cioè, mi hai detto tu, nominato nel manifesto del futurismo. Esatto, era il teatro di varietà, credo fosse proprio il culmine dell'intrattenimento del manifesto futurista, esatto. No? Sì, dove accadeva di qualsiasi cosa, dove veniva dove si inneggiava all'imprevisto, si inneggiava alla confusione. Bellissimo. E si raccontavano storie. E si raccontavano storie con questo piglio che ovviamente, manco a dirlo, sanno avere solo i migliori napoletani. E direi che il resto dei commenti su questo pezzo lo facciamo dopo. Adesso andiamo a sentire la versione della Nuova Compagnia di Canto Popolare di questa canzone classica napoletana che si chiama Tammurriata Nera. Senti qua, Battito Madre, su astrabere.com e su Radio Exalge. Thank you. chiama giro, sì signore, chiama giro. Basta sulla una guardata e la femmina è rimasto e sotto a botta impressionata. Se la guardata, se la impressiona, se quando anno che è stata una cogliuta buono di chi l'ho fatta in mia lì. Dicevo parlare, non mi parlavo, perché ti raggio un uomo che ti fatto non ci spiego. Che ti e dopo passino grano, grano cresce, riesce o non riesce, è sempre grano che la che è. Si c'è un tuono per pancire, chi lo fa tenere lì, mira lì con ma te. Se la guardate, se la impressione, se la tua alma di estate, ma vogliuta buono di, chi lo fa tenere lì, mira lì con ma te. Tammurriata nera nella versione della nuova compagnia di canto popolare è appunto una canzone napoletana classica, una delle canzoni popolari più famose a Napoli, e abbiamo detto che racconta una storia, e la storia che racconta è proprio quella a cui accennavo prima, no? Gli eventi storici. Il grande evento storico degli anni 40 purtroppo è stata la Seconda Guerra Mondiale. E ora, negli anni 40, come in realtà abbiamo avuto modo di capire l'anno scorso, il blues era già praticamente cosa vecchia. Stava per arrivare l'era dell'R&B e del soul, ma comunque diciamo che la black music era già diventata da folcloristica a direttamente popolare negli Stati Uniti. E ovviamente nell'esercito che è stato mandato in Europa per, tra virgolette, risolvere le cose, c'erano molte, c'erano molti uomini neri, che poi ovviamente essendo di stanza in Italia, in Europa, nei vari posti in cui si combatteva, si facevano un po', cioè vivevano lì. E per cui la storia che racconta questa canzone popolare è proprio quella di una donna napoletana che alla fine della guerra, quando se ne vanno gli americani, partorisce un bambino nero. Infatti la canzone dice: è nato nero con macchè. E in realtà è tutto è una canzone che sfotte questa donna, perché già è nato nero e tu lo chiami Ciro come se fosse napoletano. Ovviamente, come se non fossimo in grado di accorgercene da soli, ci pensa un grande musicista napoletano che è proprio figlio di una storia come questa, che è James Enese, perché insomma è figlio di uno statunitense e di una napoletana. Ci avvisa lui che ovviamente è una canzone razzista, perché perché è immediatamente evidente, stigmatizza, prende in giro, ridicolizza una donna perché ha avuto un figlio di un colore che non è quello più diffuso a Napoli, ecco. Bella storia, complimenti. Cioè, complimenti a te per la... Complimenti per, alla mamma. No, a te per averla raccontata così bene, e bravi noi per averla portata in radio, perché la canzone è molto bella. Ci ricordava, tra l'altro, c'erano dei passaggi di strofe che ci ricordavano anche altre canzoni italiane, proprio anche nel cantautorato italiano. Sì. E, bellissima canzone. Una cosa che volevo dire su Napoli, che vabbè, ovviamente come sappiamo è uno dei porti italiani più importanti, ma questo voleva dire che esattamente proprio perché era così c'era veramente tanta varietà sociale all'interno, sociale di etnie esatto, sì, no? Sì. Veramente varia. Un porto, hai detto bene. E uno dei, tra l'altro, uno di questi caffè cantanti più famosi d'Europa era proprio a Napoli, si chiamava Caffè Margherita. Ah, wow, bello, perfetto. Andiamo un po' a chiudere il cerchio. A proposito di caffè cantanti, che in francese si traduce caffè chantant perfettamente. I caffè chantant succedevano esattamente le stesse cose. Per cui, però, adesso facciamo così: andiamo un po' a vedere il rovescio della medaglia, no? Per cui invece di suonarci una canzone popolare francese che veniva suonata e cantata nei caffè chantant, andiamo a sentirci qualche cosa che è il prodotto di questa influenza globalizzante della musica, soprattutto nera, che è arrivata in Europa con la globalizzazione e soprattutto purtroppo con i soldati. Per cui andiamo a sentire questo pezzo, che è uno dei pezzi più importanti, più conosciuti. Noi non andiamo a diggare troppo su certe cose di questa cantante che vive ancora, si chiama Françoise Hardy, viene dal disco di debutto che si chiama appunto Françoise Hardy. Il pezzo si intitola Le Temps de l'amour, cioè molto come si può dire, lapalistianamente, i tempi, il tempo dell'amore. Ha questo inizio molto bello di batteria, insomma, mi piace molto, dura pochino. Andiamo a sentirla, lei, Françoise Hardy. De chaleur et de bonheur. c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. François Hardy, Il tempo dell'amore, Le temps de l'amour, direttamente dal 1962, il suo disco d'esordio. Insomma, si sente molto chiaramente l'influenza, non vorrei dire, ma sì, ma diciamo l'americana della musica che stava arrivando anche da quelle parti e anche dalle nostre, certo, parti. Beh, la radio ormai era bella anche presente. E allora parlavamo di nuovo di adesso di Café Chantant, prima in Catalogna Los Café Cantantes, insomma tutta roba che i caffè cantanti in Italia, tutta roba che si somiglia. E un'altra cosa molto simile che succedeva in un altro luogo del Mediterraneo, cioè andando più verso est, cioè sul mare Egeo, e cioè parliamo della Grecia, erano dei caffè, i tekes, i caffè Aman, il Lamané, erano tutti luoghi in cui si andava ad ascoltare, o meglio, in cui è nata la musica che è stato un po' il prodotto della tradizione greca e dell'est del Mediterraneo con la globalizzazione, soprattutto in chiave appunto di musica popolare e molto spesso musica nera, che veniva dagli Stati Uniti, che si chiama, forse l'ho già detto, ma apro delle parentesi così lunghe che poi mi dimentico cosa ho detto prima, si chiama rebetico. Appunto, è un'espressione molto tipica in cui però si possono sentire certamente, forse anche nei temi, in certe melodie, le influenze di quello che abbiamo appena finito di dire, cioè della globalizzazione, no? Esatto, perché nonostante comunque nonostante erano posti al di fuori dell'Europa, quella più globalizzata, comunque nascevano questi posti in cui venivano ascoltate anche le musiche occidentali, venivano ospitati gruppi e persone e artisti, certo, di musica occidentale. Quindi questo, come dicevi tu, ha portato poi alla fusione e alla stabilizzazione vera e propria di dei generi che ancora oggi fanno parte dell'immaginario collettivo. Presto fatto, no? Cioè, di fatto non c'è molto a spiegare. Allora, guarda, il Tekkes, virgolettato, era un locale con finalità e natura ambigue. Un bancone da taverna, due o tre bottiglioni di liquori colorati, le saracinesche sempre mezze abbassate. Un posto dove ci si incontrava per fumare il narghilè, chiacchierare, trovare l'amore a pagamento e perdere il tempo con gli amici. Un piccolo spazio oscuro e fumoso dove l'illegalità si mescolava con l'intrattenimento. La borghesia con la malavita. Un modo di passare le serate importato in Grecia dagli immigrati cacciati dalla Turchia dopo la catastrofe del 1922. Addirittura dice un punto di incontro tra Oriente e Occidente. E in effetti è esattamente così. Andremo a sentire un pezzo di quello che viene considerato un po' il fondatore del rebetico, l'originator, diremmo noi, cioè Marcos Vambakaris, come l'ho detto bene, che tra l'altro era un tizio particolare, ha cominciato la sua carriera da musicista proprio in questi tekkes, dove ovviamente si fumava oppio, hashish, un po' di tutto, e queste robe sono entrate tutte nei suoi testi. Aveva dei testi very bold, dice Spotify, molto diretti, molto grossi. Lui tra l'altro era originario dell'isola di Siro, in anni in cui tra l'altro la Grecia ha avuto un contatto poco piacevole con l'Italia, perché poi l'Italia ha effettivamente provato a colonizzare la Grecia. Queste sono delle cose di cui non dovremmo mai dimenticarci, e anzi il nostro amico Marcos Vambakaris ha scritto una canzone proprio da dedicare alla sua terra, Grecia, insomma, contro il colonizzatore italiano. Non è la canzone che andremo a sentire, perché a noi quelli piacciono forse un po' di più le canzoni d'amore, vero? sono d'accordo, sì. E allora andiamo a sentire questo pezzo che si chiama Tamatoclada Soulampun, di inizio anni 60, che si traduce proprio letteralmente le tue ciglia brillano, cioè che è una cosa meravigliosa, ed è l'originator del rebetico. Sentiamo come fa, siamo sempre in diretta, questo è Battito Madre su astralbene.com e su Radio Exage, let's go. Da lulu da tu capu preta matoclada su la bu. Ta matoclada su gernisve. Νου και λογισμό μου παίρνεις, νου και λογισμό μου παίρνεις, βρε τα ματοκλάδα σου γερνείς. Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε μου ραΐζουνε την καρδούλα, μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε. Tamatoclada Soulampun, lo diceva Marcos Vambakaris, cioè le tue ciglia brillano, questa bellissima canzone d'amore in greco dell'originator, del fondatore del genere tipico di quelle zone del mondo, d'Europa e del Mediterraneo, che si chiama rebetico. Mentre noi proseguiamo il nostro viaggetto, sono le 8 in punto, noi siamo sempre Piero e Coli, questo è sempre Battito Madre, la pilota della seconda stagione, e siamo sempre in diretta da Exalge in Milano su Radio Exalge e su astralbene.com. Se siete appena sintonizzati, sintonizzate, siete appena arrivati, arrivate in associazione, ora sapete che cosa minchia sta succedendo. Detto questo, noi proseguiamo il nostro viaggio, mi verrebbe da dire nel Mediterraneo, ma in realtà stiamo un po' cambiando anche acque, perché parliamo più di una situazione atlantica, è vero? Sì, perché sì, andiamo in Portogallo. In Portogallo, dove la musica tradizionale, il canto più forse più che musica, però sì, anche musica tradizionale, era il fado. Il fado che abbiamo letto, abbiamo sentito, è un po' è stato definito il blues delle vedove dei pescatori portoghesi, che io trovo una cosa di una poesia incredibile. E abbiamo anche scoperto che il nome fado viene dal latino fatum. Cioè, quindi pensiamo, no? Cioè, tu sei moglie di un pescatore 100-200 anni fa, tuo marito non torna più, perché è stato, diciamo, catturato, è stato ucciso dal promestiere, dal mare, e quindi di che cosa puoi cantare se non di fato, di destino e di sofferenza. Infatti è una musica molto molto sofferta e sofferente. Poi sentiremo, abbiamo preparato una canzone che è bellissima, che però allo stesso tempo davvero ti stropiccia il cuore. Bravissimo. Stavo leggendo qua un po' il mio libro leggi. di musicologia, chiamiamolo così, e stavo guardando un po' qua c'era una cosa interessante. Non è trascurabile il contributo degli italiani, rintracciabile nella grande abbondanza di termini della nostra lingua e dialetti, il lunfardo, il gergo rioplatenese, nel quale sono stati scritti. Rioplatense, perdonami. Rioplatense, cioè del grazie. Rio della Plata, no? Argentina. Grazie. In cui sono stati riscritti in parte molti testi del tango. Quindi abbiamo fatto anche noi italiani qualcosa per la divulgazione del fado. Vabbè, però adesso io credo che sia complicato trovare una cosa nel mondo di cui qualche italiano non cerca di rivendicare la paternità. Comunque dai, bello, bello aver letto. Grazie Luca. Bello aver letto anche questo, hai capito? Ci abbiamo messo lo zampino anche lì. Sentiamoci questo ultimo pezzo, direi, visto che siamo sentiamoci come penultimo, sempre, siamo penultimo anche in della nostra stavolta. Playlist. Poi in realtà no. Ci sarà altro, però sì, sentiamoci questo. Lei è Ana Moura, che è un nome molto diffuso in Portogallo, e canta questo pezzo che si chiama Ateo Vrao, da un disco che appunto si chiama Desfado, cioè il contrario, De Fado. Ripeto, un pezzo che a me mi si mangia il cuore e che però adoro ascoltare. Sentiamo come fa in diretta questo Battito Madre. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra macela em corpo de aço nas ruelas do desdém. Se é bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vim sem volta, queira eu ou não, que me calhe a vida. Na primavera o som do encanto, riso a promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço. Falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Fim sem volta, queira eu ou não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Thank you. A Te Avrò è questo fado di un disco che è recente, ha poco più di 10 anni, poco più di 10 anni, vabbè, comunque è del 2012, il disco è appunto recente, si chiama recente, Desfado. Stiamo partendo da cose che hanno un secolo ormai, recente. Sì, esatto. Desfado, che poi mi fa ridere perché in dialetto veneto significherebbe un'altra cosa, no? Cioè Desfado... distrutto, disfatto, ma vabbè, insomma, però qua stiamo parlando di cose un po' più alte. E allora, abbiamo parlato di sofferenza, questa è la musica della sofferenza delle vedove dei pescatori portoghesi, ma in generale della la musica della sofferenza folclorica portoghese. Noi avevamo già incontrato l'anno scorso una musica che abbiamo definito, anzi che si definisce da sé, come un sentimento, come un'emozione, no? Che è esattamente, l'abbiamo già detto, il blues. Per cui questo, c'è qualcos'altro da dire sul fado? No, mi pare di no, sono chitarre, voce, cioè proprio una cosa. Sì, si poteva anche molto attribuire al, anche qua di nuovo alla criminalità, ai ladri, a certo, chi frequentava le strade, eccetera. Però no, oltre a questo, vabbè, ci sarebbe chissà quante altre cose da dire ci sarebbe. Ah no, questo volevo dire, perché poi sai, tra l'anno scorso e anche quest'anno ci succederà, incontreremo queste due dimensioni che sembrano stare insieme, cioè che sembrano non centrare l'una con l'altra, ma poi alla fine stanno insieme, di tante musiche, delle tradizioni popolari, cioè la condivisione, lo stare insieme e il muovere i propri, proprio come presenza, e muovere i propri corpi insieme, e invece la dimensione della sofferenza, che noi invece siamo abituati a pensare come cosa privata, no? In questo caso del fado è proprio il lutto, la sofferenza che viene da un lutto, e mi piace un po' ragionare su questo, come una volta anche il lutto, anche la sofferenza aveva la sua dimensione pubblica. Tra l'altro ho visto uno spettacolo di teatro un po' di tempo fa su questo, di cui adesso non starò qui a parlare, però insomma, no, le famose urlatrici di retaggio dell'antica Grecia, questi urli in piazza che risuonano per tutto il paese, è uno tra gli elementi che facevano il lutto anche in luoghi molto più vicini e nel tempo e nello spazio a noi, una questione pubblica e di condivisione. È un po' come, e chiudo, è un po' come se ci fosse un cerchio in cui si sta insieme e si muove i propri corpi insieme, e soprattutto in cui ognuno fa una offerta, mette qualcosa di suo, un'offerta a chi, non so, si può dire a Dio, si può dire all'universo, a qualsiasi cosa abbia un certo tipo di livello di valore spirituale per quella persona lì. E succede che molto spesso tutto quello che le persone possiedono non è altro che la propria sofferenza, per cui succede che si mette in mezzo, no? Si offre la mia offerta e la mia sofferenza, e la mettiamo insieme e vediamo che cosa ne esce delle nostre sofferenze, no? Molto spesso uscivano dei pezzi di arte, di cultura, che si fa fatica, ecco, a mettere in parola. Ho detto minchiate? No, per niente. Bene, quindi dunque, a proposito di sofferenza, grazie, ti ringrazio anche perché qua non mi ha risposto nessuno, che probabilmente era un sì. E, a proposito di sofferenza, ci piace andare a sentire un blues, che in questa giornata che qua a Milano oggi è arrivato l'inverno, freddo, vento, umidità, a noi ci piace suonare un pezzo che si chiama The Hotspot, o meglio, che si chiama Coming to Town, ma che viene dalla colonna sonora del film che si chiama The Hotspot del 1990, cioè il punto caldo, il posto caldo, credo sia stato tradotto in Italia, un film tratto dal romanzo bestseller del 53 che si chiamava Hell Hath No Fury, di, se non sbaglio, Charles Williams si chiamava l'autore, insomma, ambientato in questa caldissima estate di un paesino piccolissimo nel mezzo del Texas. Sentiamo questo blues di John Lee Hooker, Miles Davis con la sua tromba, con la sordina, è una cosa bellissima, sono 3 minuti di appunto pura sofferenza, e a noi piace andare avanti così. Senti, qui sei in diretta, Battito Madre su Radio Exalge e astronomia.com. Thank you. E torniamo in diretta su astralmail.com e su Radio Exalge. Siamo sempre live da Exalge Milano, mentre io mi sono tolto le cuffie e fa davvero una sensazione strana. Mi sento stranissimo, mi sento un po' stupido, mi sento strano, mi sento strano. Detto questo, mentre sono esattamente le 8:15, siamo andati ovviamente lunghi anche se abbiamo provato a non farlo, è il tempo di introdurre quelli che sono i nostri ospiti, sono venuti qui a fare un paio di chiacchiere con noi. Facciamo che li introduciamo uno alla volta. Abbiamo qui intanto mio bro Nicolò Perez Castellani, diciamo entrambi i cognomi. Abbiamo Simone Meraviglia, abbiamo Enrico Bondi, è vero, li ho detti tutti giusti, che insieme sono, possiamo dirlo, Vulcaminetta. E sono qui con noi intanto per parlare di altro. Ma prima di tutto, abbiamo parlato di folk popular. Vi è stato dato un microfono, diamo loro un microfono. Abbiamo parlato di folk, di popular, musica popolare. Nico, per te musica popolare, più o meno, in due parole, cosa... Allora, innanzitutto sono molto contento, siamo molto contenti di essere qua e grazie per l'invito. Musica popolare secondo me può avere più definizioni, può essere popolare inteso come di tutti, quindi appartenente a una grossa massa di utilizzatori, di fruitori o di ascoltatori, appunto se parliamo di musica. Popolare può essere anche secondo me inteso come ricettore di quelle caratteristiche tradizionali magari di una cultura, quindi popolare inteso come appartenente alla classe, diciamo, popolare, quindi quelli che possono, tutte quelle categorie sociali che possono appunto come dire, rimanere più fedeli alle tradizioni di un popolo o di una cultura. Certo, popolare, però appunto abbiamo parlato adesso di musica che viene abbastanza tutta da certi luoghi del mondo, cioè l'Europa mediterranea. Però l'anno scorso abbiamo parlato molto di Africa, di America, quest'anno viaggeremo un po', per cui popolare e world music. Simo, voi al festival avete anche un'attenzione, no? a portare questa varietà qui. Assolutamente, cioè... La volontà di portarla al festival è sicuramente perché prima di tutto è per noi un amore verso questo genere di musica, tanto da farci appunto questo nuovo format, tra l'altro, di cui parleremo dopo, però... Però sì, no, assolutamente, credo sia fondamentale, tra l'altro, ma sono anche convinto che sia il momento storico in cui più, cioè, in cui c'è più attenzione rispetto a questa roba, in cui più la gente si ritrova. Sempre più gente con cui parlo si ritrova in questo ascolto collettivo verso questo genere musicale. Sì. Sull'ascolto collettivo io direi che possiamo chiudere questo primo spezzone e andarci ad ascoltare la prima delle tracce che ci hanno portato i ragazzi, perché abbiamo chiesto di chiudere la nostra playlist. Quindi la prima di queste tracce è l'uomo che si chiama Limosis e il pezzo si chiama Time and Place, dal 1971. Direi che si aggancia perfettamente, Coli, a quello che abbiamo ascoltato finora. Siamo sempre Battito Madre su Radio Exile, justradio.com. Abbiamo qui i ragazzi di Ulcaminette, Club Mondo, di un sacco di roba che fanno figa loro, e torniamo tra pochissimo. Rientriamo in diretta di nuovo su starbene.com, su Radio Exalge. Questa è la puntata pilota della seconda stagione di questo che si chiama Battito Madre, e siamo qui in compagnia di ragazzi, di Simone, di Nicolò, di Enrico, che ufficialmente sono venuti a presentare un progetto che parte domani. A proposito di World Music, parte domani, sì, domani ci sarà questo lancio di questo nuovo progetto, che è un format di eventi, di concerti. Il suo nome l'hai detto tu prima, ma ripetiamolo, è Club Mondo. E, un'idea che nasce insieme a Simone, raccogliendo quello che è un po' il nostro interesse appunto per le musiche delle varie culture del mondo. A me piace chiamarle Global Grooves o musica etnica, o chiama World Music, chiamala come vuoi. The World is a Groove è un claim, un payoff molto bello, che potrebbe essere utilizzato per Club Mondo. E, quindi l'idea è quella di sviluppare un format di concerti basato sulla musica del mondo, e che possa fondere insieme un'attitudine di musica live, quindi suonata dal vivo, con un'attitudine invece più elettronica, più da club. Abbiamo, diciamo, riflettuto sul fatto che oggi i club, i locali dove si suona la musica e dove si balla, sono alcuni degli ultimi spazi rituali dove si possa celebrare i riti collettivi legati alla musica, alla danza, al linguaggio del corpo, e quindi volevamo un po' ricreare questo mondo, questo club mondo, e lo faremo all'interno di una cornice particolare, insomma anche abbastanza conosciuta a Milano, che è quella di Santeria Toscana, quindi insomma uno spazio anche molto grande. Insieme a Stisi, da Aquaba World. Esatto, sì, domani che ci sarà appunto il lancio, organizziamo questo evento in cui ci saranno due DJ set, uno di Stisi, che è DJ, selector, curatore musicale di questo collettivo milanese, ma in realtà di respiro mondiale, che si chiama Aquaba World, e l'altro DJ set è di Psicofono, questo trio di ragazzi collezionisti, selector, di musica tradizionale proveniente da varie culture del mondo. Simo, io ti coinvolgo di nuovo perché abbiamo scherzato su questo claim che ho fatto io su Instagram, però poi in realtà Club Mondo il claim ce l'ha, e ce n'è uno che a me piace tantissimo, ed è: chi batte i piedi per terra fa il mondo tamburo. Dimmi qualcosa. Ma io dico solo che questa è una città di Ivan il Poeta, che prima o poi vorrei conoscere, perché io non sono di Milano, sono fuori Milano, ma mi dicono che questo Ivan, non so se tu lo conosci, però è un ragazzo che andava in giro a pittare queste frasi poetiche sui muri. Ed effettivamente quando Paolo Cerruto, che ha scritto il manifesto insomma di Club Mondo, ha messo questa frase, io subito, appena l'ho letta, avevo detto brividi, è fantastica, infatti l'abbiamo usata insomma come che me, sono contento, ti piace, però... Citiamo Ivan il Poeta, il famoso Ivan il Poeta. Scusa, Ivan il Poeta, e citiamo anche i ragazzi di Chullu Agency. Certo. E di Voodoo, che sono altre due realtà che supportano Club Mondo, che abbiamo deciso di coinvolgere fin da subito per la realizzazione di questo progetto. Ma l'hai detto dove, in tutto ciò? Santeria Toscana. Infatti, sia la preview... Me l'ero perso. Che poi, diciamo... La vera release del progetto, che sarà a partire da marzo, sempre in Santeria. E allora, sulle parole scritte sui muri di Ivan il Terribile, di Ivan il Poeta, noi andiamo a sentire il secondo pezzo. Ci siamo provati, ragazzi, un pezzo che viene invece questo giro dall'Italia, dalla signora di Milano, Ornella Vanoni, con queste vibrazioni, insomma, che sto qua a parlare. Ascoltiamo la musica, il pezzo si chiama Senza Paura, senti come fa. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice: chiamo l'uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. C'è, fa parte del gioco. Tu non facci caso, se non vivi poco, tieni sempre duro. Comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada. di qualunque settimana, giunge il giorno di qualunque settimana, battono alla porta, battono alla porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per l'amore. E la lasciamo sfumare in sottofondo questa canzonissima di Ornella Vanoni, per dire che stiamo quasi arrivando alla fine di questa nostra puntata pilota della seconda stagione di Battito Madre. E finora abbiamo sentito Nico, abbiamo sentito Simone, ma qui io voglio sentire Enrico, perché andiamo su un tema più tecnico, no? Perché Enrico è quello che poi le mani nella musica le mette più in pasta. Tu sei produttore, sì, esatto. Sei musicista, insomma. E abbiamo sentito come secondo pezzo di questa trasmissione l'ultimo singolo dei Beatles, no, Now and Then, che abbiamo anche detto è stato fatto con l'intelligenza artificiale, cioè c'è questa cassetta, no, su cui John Lennon aveva registrato questo provino piano e voce della canzone. Adesso, con le possibilità dell'intelligenza artificiale, Paul, Ringo e Keeper, essi si sono messi d'accordo, si sono messi al lavoro, hanno estratto, pulito e completato la traccia di voce di John da questo provino, riarrangiato il tutto, ed è uscito questo singolo che si chiama Now and Then. Cosa ne pensiamo di questa cosa, Henry? Ma a parte il giudizio che posso dare sulla canzone in sé, che comunque è molto bella, secondo me, almeno per il mio personale parere, il motivo filosofico per cui è stata fatta a me non fa così tanto piacere, cioè, sentiamo, mi sembra sentiamo un po', perché comunque alla fine la musica ci hanno messo dietro un botto di merch, poi no, ma a parte la chiara commercializzazione di questa cosa, che è palese, però vabbè, questo non è un problema. La musica è un prodotto e va venduto comunque alla fine della fiera. Però secondo me la cosa un po' svilente è il fatto che comunque tu prendi, se si comincia a usare l'intelligenza artificiale per fare cose, prendere la voce di artisti che magari sono morti, o comunque se si usano questi tipi di strumenti per ridar vita a qualcosa che in realtà non c'è più, secondo me toglie un po' anche l'unicità di quella cosa, che comunque i Beatles sono stati un fenomeno mondiale che però ha avuto un inizio e una fine. Ed è bellissimo anche. Esatto. Quello. Cioè, nel senso, comunque anche gli dèi, per esempio, invidiavano gli uomini perché erano mortali. Wow. E perché ogni momento che loro vivevano era un momento molto più intenso rispetto ai loro momenti, che erano ormai troppo, cioè molto più meno intrinsechi di significato. E questa cosa si può, secondo me, trasportare sulla musica, cioè, nel senso, se qualche cosa ha un inizio e una fine, c'è un motivo. Anche perché la musica non è solo una canzone, la musica è anche condivisione, è anche un momento sociale in cui si incontrano delle persone, e forse è la cosa più importante della musica, cioè nel momento in cui tu hai bisogno di vederti con altre persone per fare o per sentire della musica, è in quel modo che si crea una scena, non ascoltando magari su Spotify una traccia che è stata scritta da una persona dall'altra parte del mondo. Cioè, è importante capire questa cosa, perché si sta perdendo, e anche con Club Mondo, secondo me, Bisogna far sì che questa cosa ritorni, cioè in modo esplicito. Esatto, cioè il fatto che la musica non è solo ascoltare la musica, ma è incontrarsi per incontrare la musica. È incontrare la musica, è incontrarsi per fare un gruppo sociale che ha bisogno di esprimere qualche cosa, ma lo si vede anche in tutti quanti i generi. La techno è stata per molto tempo comunque anche un modo per fuggire dalla monotonia della vita magari tedesca. Quindi niente, questo è un po' tutt'altro che niente, mi sembra. Invece Enrico, su questo, sui bellissimi momenti di incontrare la musica che purtroppo finiscono, io vorrei intanto ringraziarvi. Grazie Simo. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacerissimo davvero per averci ospitato, insomma aver potuto parlare di questo nuovo progetto. Grazie Nico. Grazie a voi, venite domani in Santeria, ore 21.30, bar stage e teatro stage, perché c'è anche il live dei Parbleu. E grazie R. Grazie mille a voi, grazie per noi ricordiamo a chiunque sia all'ascolto o qui in diretta live da Exalge, ci vediamo domani sera in Santeria per incontrare la musica e per un bellissimo momento che purtroppo finirà, ma fino all'appuntamento successivo di Club Mondo. Coli, grazie un'altra volta per essere stato con me, per essere così fondamentale in questo programma, perché io da solo non riuscirei mai a fare. Grazie a te Perino, ringraziamo Exalge. Prendo i miei meriti e va bene. No, no, ma ce li hai tutti. Ringraziamo Exalge, ringraziamo a Star Bene. Noi andiamo a sentire l'ultimo pezzo, ci hanno portato i ragazzi, dopo il quale andremo direttamente in sigla. Questo pezzo, appunto, a proposito di vibrazioni differenti, si chiama Up All Night, è quello che faremo domani sera dell'artista che si chiama Salt. E appunto sta finendo qui questa puntata pilota della seconda stagione di Battito Madre. Noi ci risentiremo a gennaio. Ciao, alla prossima.